Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! Oh, no, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutte le ascoltatrici di Radio Wombat. Siete qui di nuovo collegate con Nervature, la trasmissione in cui io, Addu, vi parlo di piante, giardinaggio, botanica, ma anche urbanistica, anche ambiente ed ecologia, a seconda delle volte, a seconda dei casi. Eccoci, eccoci, stavate già ascoltando un bel sottofondo musicale, vi avevo diciamo iniziato un po' qualche minuto prima con la sequenza di appunto di musiche, di pezzi che spero abbiate gradito. Sono anche, li sentite ancora un po' in sottofondo, i Mo Horizons, grande, grande gruppo. Dunque, siamo qui alla 24esima puntata di Nervature. Mi scuso molto, la scorsa settimana non sono riuscita a trasmettere, mi dispiace, però oggi sono qui e quindi si riparte tranquillamente in voce. E ricordo ovviamente immediatamente i contatti della radio. Quindi sto trasmettendo su Radio Wombat, che vi ricordo essere l'unica radio libera di Firenze, autogestita oltretutto, sempre da ricordare, e ci trovate sul sito radiowombat.net. Ve lo dico perché è un'informazione importante questa, perché dal sito trovate tutti i podcast, trovate il palinsesto, trovate tutte le trasmissioni attive e non attive, perché sapete che Wombat è una radio ormai vecchiaccia, no, è una radio matura, no? Si dice matura, ecco, e quindi ci sono state tante trasmissioni anche nella sua vecchia storia passata, e questo è comunque un valore importantissimo che questa radio bellissima ha. Quindi dicevamo, il sito radiowombat.net, trovate i podcast, trovate anche il bottoncino giallo per ascoltarci in diretta, cosa che immagino abbiate già pigiato. Ma da quella pagina, una volta che ci state ascoltando sullo streaming, trovate anche il link per accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso con cui voi potete parlare con me in questo momento, ma in generale con tutti quelli che fanno le dirette. Quindi apritelo il pad, vi esorto a aprirlo, a scrivermi, a salutarmi, a chiacchierare, fare domande, qualsiasi cosa come sempre è ben accetta. E a me piace tanto quando c'è così, interazione, quando c'è qualche piccolo commento anche stupido, è così, è bello, divertente. Allora, cosa ci prospetta la puntata di oggi? Ebbene, purtroppo vi dico subito, dovrò forse interrompermi un po' prima, quindi non durerà un'ora e mezzo precisa come sempre, ma anzi a volte dura anche un po' di più, dai, diciamo che con tutti i minutini che ho sforato potrei quasi fare una puntata in più nuova. Comunque invece stavolta mi sa che sarà un po' più stretta coi tempi per impegni personali. Quindi oggi volevo riprendere due argomenti che già ho trattato, perché è bello ogni tanto avere un po' di continuità e non apparire ogni settimana come se fossi tutta un'altra persona a parlare di cose sempre totalmente diverse. E quindi appunto riprendo due argomenti, ve li annuncio subito. Sono uno è, se mi avete seguito negli ultimi mesi ve lo ricorderete, è il concorso degli alberi italiani lanciato dalla Giant Trees Foundation, che già avevo ampiamente spiegato e raccontato in modo solo vagamente ironico in una puntata precedente. E oggi invece vado a riprendere l'argomento, poi scoprirete perché. E poi invece l'altro argomento che riprendo è la conoscitura, mi raccomando, della pianta del fico. Come sapete ho fatto una puntata intera in cui parlo solo di quello. Avevo raccontato un po' di questioni linguistiche, letterarie inizialmente, per poi invece concentrarmi su quella parte così più spumeggiante, come sapete mi piace di più, su proprio la botanica e sulla parte più scientifica di come funziona la riproduzione del fico. Non starò di nuovo qui a raccontarla, perché l'ho già fatto e anche perché è molto lungo. E se mi avete già sentito in quella puntata vi ricorderete che non era così facile la questione. E, però ve ne riparlo invece della pianta del fico più in generale, perché ho trovato un altro libriccino, opuscoletto, che mi ha fatto scoprire un po' di cose nuove e diverse. Quindi e direi di partire subito però con una musica, come mio solito iniziamo con calma. E quindi vi manderei questo Joy Crooker, No Hands. Buon ascolto. Baby. Meet me southeast on the downbeat, with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G, it takes too much of my power. Oh, can't stay too long, I might stain someone. Round and round I go, got to set the tone. In the hands of none, that's where I belong. Spending nights in lonely castles, where I learned to sing my cries. Sweet is 16, don't test me, I could not sit still if I tried. Learning to run before I could walk out. Learning to cuss before I could talk it out. Nah, nah, nah. Oh, can't stay too long, I might stain someone. Round and round I go, got to set the tone. In the hands of none, that's where I like I can, no, like I can. stay too long. I might stay in some more. Round and round I go. Got to set the tone in the hands of none. That's where I belong. That's where I belong. Ah, ma com'è carina questa canzone, mi piace un sacco. Questo era Joy Crookers, No Hands, penso si chiami il brano. Allora, quindi, ovviamente sempre qui sintonizzate su Radio Wombat e integro, diciamo, i contatti della radio. Prima ve ne ho detti un po', vi ho detto il sito radiowombat.net, vi ho detto il pad direttawombat.vado.li, ma non è finita qui. Quindi altri contatti sicuramente molto molto utili sono la casella di posta, che è postawombat@insiberia.net. cioè, dovete ammettere che comunque siamo, cioè, abbiamo dei gran bei nomi tra Wombat, Insiberia, cioè, dai, ammettiamolo, riconosciamoci tutti i nostri, no? Giusto. Bene, invece, se siete su radiowombat.net, quindi il nostro sito, dalla sezione contatti, trovate la casella di posta che vi ho appena detto, trovate anche un bel bottoncione messaggeria, questa sì che è interessante. Se ci pigiate potete, accedete a una pagina con cui potete registrare e mandarci un messaggio vocale. Come sapete noi ancora non penso ce l'avremo mai, comunque non abbiamo un telefono con tipo WhatsApp, quindi se ci volete far sentire la vostra voce potete mandare appunto un messaggio tramite la messaggeria, noi lo riceviamo sulla casella di posta. Quindi vabbè, non vi risponderò in diretta, ma insomma comunque va bene così, va bene lo stesso. E, colgo questa occasione, tra l'altro, per fare un bello spoiler, diciamo, chiamiamolo così, riguardo a un argomento, scusate, che è da tanto che mi piacerebbe tirar fuori a un certo punto in una puntata di Nervature, ovvero, sapete che parlo di piante, no? A volte biologia, a volte giardinaggio, a volte appunto consociazioni belle fra piante, dalle belle fioriture e cose così. E quindi è proprio un argomento che mi piace, ma so che non sono l'unica invasata, ma ce n'è tante altre nel mondo, ce n'è tante tante altre di invasate così. E quindi mi piacerebbe tantissimo, tantissimo raccattare un po' di testimonianze, di, ora detta così è un po' pesante, ma diciamo di racconti, ecco meglio, di racconti vostri riguardanti una o più piante. Quindi magari, che ne so, avete la storia di una vostra amicizia che per qualche ragione è stata legata a una pianta, magari gli avete regalato una pianta, magari un bouquet di fiori, o magari, vabbè, se si vuole andare un po' più sullo scontato, una reazione amorosa che è partita con appunto un bel bouquet, qualcosa del genere, oppure in un viaggio, avete fatto un viaggio e per qualche ragione, ma che ne so, lo butto lì, magari avete conosciuto qualcuno tramite, diciamo, in seguito a un qualche contatto con una qualche pianta. Insomma, una storia che vi stia a cuore, qualcosa che proprio sentite in modo, sì, proprio emotivo. E per questo, proprio per questa ragione emotiva, volevo cogliere la palla al balzo del discorso della messaggeria, perché mi piacerebbe tanto che se qualcuna di voi ha una qualche storia da raccontarmi, che me la invii tramite la messaggeria di Radio Wombat. Che ne pensate? Io so che sviscerate un po' la vostra storia, la vostra vita, so che qualcosa riuscirete a trovare e poi me lo racconterete. Allora, lanciamoci nel primo argomento che già vi ho accennato, ovvero sto parlando del concorso dell'albero più amato d'Italia, diciamo così. Concorso lanciato dalla Giant Trees Foundation ormai già da qualche mese. E perché ne parlo oggi? Perché oggi è il giorno, la scadenza. Oggi è il termine massimo per votare. Ho visto che, cioè, oggi proprio 20 novembre, quindi lunedì 20 novembre finiscono e chiudono le votazioni. Suppongo però che le chiudono a mezzanotte perché ancora è possibile votare. Bene, quindi se vi ricordate l'altra volta che ho parlato di sta cosa, vi avevo un po' presentato tutti i candidati. Rivediamoli molto molto velocemente. Abbiamo la Sequoia Gemella di Villa San Mezzano a Reggello. Eh sì, e quindi abbiamo uno dei candidati che è proprio un albero toscano dei dintorni di Firenze. Quindi anche stavolta dai, ho il campanilismo, dai così. Bene, poi il secondo è l'abete dei Briganti della riserva naturale abetina di Rosello. Questo invece si trova a Chieti. No, non ci piace, no. Quello dopo, il larice di Val d'Ultimo al Maso Hauslander. Questi nomi strani ovviamente sono del nord e quindi ci troviamo a Bolzano in questo caso. E infine l'ultimo, l'olivastro di Luras a Santu Baltolu, anche qui nomi strani, dove saremo? Sassari, Sardegna, si sentiva dalla U. Questi erano i quattro, siamo un po' un attimino agli sgoccioli, ma diciamo sono ancora i quattro concorrenti in gara. Ogni anno viene rifatto sto concorso, ogni anno non so chi decide questi quattro concorrenti, sono sempre quattro, e poi ci sono le votazioni. Beh, direi che è necessario fare quindi un po' un sunto della situazione attuale, e, ahimè, purtroppo quasi definitiva. Andando in ordine di scacezza. Abbiamo il larice di Val d'Ultimo al Maso Hauslander, il bolzanese. Lui non è piaciuto molto, eppure era carino, cioè non era male. Devo dire, se vi ricordate, questo gruppo di quattro larici, o tre, non mi ricordo, uno dei quali è stato particolarmente candidato per questo, appunto, questo importantissimo, fondamentale concorso. E è bello, c'è tutto il tronco scavato, insomma è stato poverino, è un po' un reduce di guerra, nel senso è stato accidentato un sacco di volte a tempeste, fulmini, temporali, un casino. E lui quanti voti ha? 31.579, bah, sembra tantissimo, incredibile, sono tanti, effettivamente sono tanti, però è l'ultimo in classifica, poverino. Il penultimo in classifica, ahimè, io non lo vorrei dire, ma è la nostra Sequoia Gemella di Villa San Mezzano a Reggello, a Firenze. Dai, siamo penultimi. Male, male, male. Il prossimo anno ci si riprova, Il prossimo anno un po' più bravi. Lì, mi raccomando, a votare ogni giorno. Si può votare 32 volte ogni giorno al massimo. Cioè, scusate, per 32 giorni si può votare una volta al giorno, ecco. Volevo dire questo. Sì, quest'anno non è andata molto bene, purtroppo siamo i penultimi in classifica con la bellezza di 34.768 voti. Beh, comunque non male, se si fa diviso 32 possiamo sapere il massimo di persone, minimo di persone che hanno votato, ma non ho una calcolatrice sotto mano. Invece il terz'ultimo, nonché secondo in classifica perché i partecipanti sono pochi, ebbene, è l'abete dei Briganti della riserva naturale abetina di Rosello, nell'appunto comune di Rosello a Chieti. Lui è stato bravo, devo dire. Mi ricordo da quello che si era visto l'altra volta che ha questa peculiarità di avere il tronco molto largo, cioè abbastanza largo, ma più che altro che rimane tantissimo di quella larghezza anche a tot metri di altezza da terra, non mi ricordo quanti, ma insomma c'è questa circonferenza del fusto che rimane quasi invariata per un sacco di metri, ecco, quindi tanta roba. E ecco, non ve l'ho detto, lui ha 38.017 voti. Beh, 4.000 più del nostro, insomma, c'è un bello scarto. C'è un bello scarto, purtroppo. E infine si arriva all'ultimo. L'ultimo è l'olivastro di Luras a Santu Baltolu, nel comune di Luras, in provincia di Sassari, quindi in Sardegna. Ebbene, questo è sempre stato, mi sa, fin dall'inizio del concorso di quest'anno, il primo in classifica con ben 43.930 voti, quindi più di 5.000 del secondo in classifica, quindi dell'abete. Sì, lui, se ce lo ricordiamo, è questo olivo millenario, ma tipo... Ora ve lo ridico, ma tipo 2000-3000 anni, ora ve lo ridico, tra i 3000 e i 4000 anni, c'è una cosa veramente fuori controllo, veramente incredibile. È molto famoso, veramente molto famoso, perché c'è tutto un percorso naturalistico, una passeggiata, insomma, che ha come tappa anche questo olivo, appunto nella provincia di Sassari. E ci vanno in tanti, è conosciuto, eccetera. Nonostante ciò, appunto, è bellissimo. Io non l'ho visto di persona, ho visto le foto, purtroppo non ci sono stata di persona, però è una cosa spettacolare. È veramente larghissimo, con una chioma, il fusto è larghissimo, in più anche la chioma è veramente immensa, e con questo tronco veramente incredibile, tutti i rami un po' tortuosi, le cavità, i buchi, i rami spezzati, c'è un po' di tutto, veramente bello bello. E quindi, insomma, un po' se lo merita, ecco, diciamo. Secondo me, io non riesco a essere più di tanto campanilista, ecco, sinceramente questo se lo meritava, secondo me. Va anche ricordare che di tutti questi quattro concorrenti c'è soltanto, o soltanto addirittura, non lo so, comunque c'è un albero monumentale. L'avevo detto anche l'altra volta, però poi mi sono resa conto che non avevo forse detto molto bene che cos'è un albero monumentale, magari non è scontato. Allora, albero monumentale è una dicitura proprio burocratica, nel senso legislativa, che viene data a volte a degli esemplari arborei e quando questi esemplari rispecchiano tutta una serie di caratteristiche di magari sono alberi molto, molto vecchi, particolari, hanno una storia particolare, magari. Insomma, però viene data molta attenzione, molta importanza proprio al ruolo di quell'albero all'interno del contesto culturale. E io, per spiegarla in modo semplice, anche per capirla per me stessa, perché è una cosa un po' strana, vi dico che fondamentalmente viene data la dicitura di albero monumentale quando un certo individuo arboreo si vuole iniziare a considerarlo come un monumento, per l'appunto. Quindi albero monumentale significa che quella cosa lì è un monumento. È una cosa molto particolare, perché i monumenti di solito sono di pietra, cioè, nel senso, per farla breve, però sono cose inanimate, sono oggetti, opere d'arte, tendenzialmente. In questo caso viene considerato un monumento qualcosa di vivo, qualcosa di vegetale e di vivo, però, cioè, lo voglio specificare, lo voglio enfatizzare questa cosa. È molto molto particolare. Sapete, un esempio era questo olivo di Luraos che sta per vincere il concorso. Sapete, gli alberi possono essere anche millenari, centenari in tanti casi, ma anche millenari. Quindi quell'albero, magari nato da un seme, è nato prima dell'impero romano, magari. Cioè, non so se uno, diciamo, noi spesso non si riesce magari a avere un focus così lontano sulla storia del mondo, no? Della Terra. Poi, così lontano relativamente, si parla comunque di qualche migliaio d'anni, quando invece la storia della Terra è ben, ben, ben più vecchia, ovviamente. Però è comunque, anche se già solo si sta parlando di 1000, 2000, 3000, 4000 anni, è comunque già difficile riuscire davvero a comprendere questo dato. Ecco, io mi immagino sempre, infatti, appunto, sto seme che spunta, questi due piccoli cotiledoni vengono fuori, stentarelli, quando ci sono gli Egizi. Cioè, io mi figuro un po' questa cosa, no? Per capire. E non è solo questo, però, cioè, va bene che spunta quando c'è gli Egizi, ma poi rimane lì, cioè, non muore. Cioè, per 1000, 2000, 3000, 4000 anni, quanto è, quella piantina non muore, rimane lì e vede tutto. Vede, per modo di dire, forse, però è lì, è presente, e un sacco di cose gli sono successe intorno nel frattempo. Insomma, questo era un po' così, per fare degli esempi. Quindi capite che anche un albero può essere un monumento, quindi sia per, appunto, tipo queste caratteristiche di longevità, ma anche, come dicevo, per altri tipi di caratteristiche più legate alla cultura. E quindi, fra questi quattro alberi del concorso, no, di quest'anno, uno di questi è albero monumentale, che non è l'olivo di Luraos. Non chiedetemi perché penso avrebbe tutte le carte in regola per esserlo, non lo è, purtroppo, ma invece lo è la sequoia gemella, proprio questa nostra bella sequoia di Reggello, quindi Firenze più o meno, diciamo. E questa sì è albero monumentale. Sinceramente non so bene la sua storia, so solo che è nel parco della villa di San Mezzano, che una villa molto particolare, con purtroppo non aperta al pubblico, un po' in decadenza, un po' tanto in decadenza da quel che so. Io non ho avuto il piacere di visitarla, ma conosco persone, ci sono state, che mi hanno raccontato essere veramente una cosa mozzafiato. Quindi so che è nel parco della villa, non so bene la sua storia. Comunque, questo è l'unico albero monumentale. Tra l'altro, cosa implica essere albero monumentale? Significa, vi dicevo che è una dicitura legislativa, perché gli alberi definiti monumentali hanno tutta una serie di tutele particolari. C'è tanti alberi che sono tutelati, sotto vincolo, eccetera, ma quelli monumentali specificatamente, cioè lì proprio non li puoi toccare, anzi, devi impegnarti per preservarli. Quindi è una cosa importante, ecco. Bene, dai, io vi manderei un altro bel brano. Direi che potremmo andare sempre su, un po' come prima, su qualcosa di forse già conosciuto a i vostri orecchi, orecchie, come si dice. E questa quindi è la versione sempre di Morrison, ero partita da lì infatti, di Hit the Road Jack, ma tradotta, quindi Penai Strada. Buon ascolto! Ai ai ai, scusate, i volumi qui non erano proprio giusti. Dai, ci riproviamo da capo. Quindi buon ascolto, Pena e Strada di Mo Horizon. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada. Questa era Pena e Strada dei Mo Horizons, appunto probabilmente già l'avevate sentita qualche volta. Quindi parlavamo degli alberi del concorso di Giant Tree Foundation e appunto quello che, ahimè, ormai penso si può già decretare vincitore, visto le scadenze delle votazioni sono oggi, è l'olivastro di Luras, che è un olivo millenario tra i 3 e i 4 mila anni in Sardegna, in provincia di Sassari, con la bellezza di quasi 44 mila voti. a fronte dei 31.000 e un po' del, invece dell'ultimo in classifica, quindi insomma c'è un buono stacco. E come si dice a volte, il destino sembra che esista davvero. Ieri per l'appunto ero a giro, beh, a far cose mie a Firenze e ho visto appese delle poesie del Movimento per l'Emancipazione della Poesia, il MEP, quindi, che se siete di Firenze, ora non so se agiscono anche in altre città, sinceramente non lo so, ma sicuramente se siete di Firenze li avete visti. Sono quelli che appendono le poesie a giro, sti fogli bianchi con queste righe poetiche. Veramente bello, una bella iniziativa, mi è sempre piaciuta. E per l'appunto ieri ho trovato questa poesia, come un albero sardo. Cioè, scusate, non so se rendo, come un albero sardo. E io sapevo e volevo parlare del concorso, dello livello di Luras, eccetera. Cioè, perfetto. E quindi vi leggo questa poesia. Come un albero sardo, divelto, strappato, che nonostante il formidabile vento permane in piedi senza aiuto alcuno, poiché unico e solo nella steppa, ancorato al suolo con radici paterne, granitico, incrollabile, eterno. Light in Babylon, questa era Ya Sahra. Bello, bellissimo, bellissimo pezzo, non c'entra ovviamente niente nel luogo per riguardo a quello che vi stavo leggendo, ovvero la poesia come un albero sardo. Come avete sentito, vi ho letto la poesia sull'albero sardo, poi siamo passati nel deserto del Sahara, c'era qualche incongruenza, però mi ci stava, dai, permettetemi queste queste inesattezze, eh? Bella, era bella sta poesia, poi davvero capitata così veramente in modo inaspettato, mi era piaciuta ancora di più. E così vi leggo allora anche un'altra poesia che non c'entra niente con quello che stavamo dicendo prima, però era carina, l'ho trovata sempre ieri fra queste poesie del MEP. E questa si chiama "Ma questo alimento generico è naturale". Sai cos'è naturale? Il tuo diritto di essere processato da un tribunale di broccoli. A. Stavo solamente eseguendo degli ordini. B. Lei stava solo cercando alimenti sani, non è così? A. Esattamente. Aggiungerei che è uso comune farlo. C. Lei mente, disse la carota in veste di avvocato dei Vegetali Uniti. Le bastava un esame di coscienza. B. O tutto può essere naturale o nulla lo è. Now, when I dream, it's always of you. You're my dream girl. Io sinceramente non so cosa dovesse significare questa poesia, però mi è sembrata troppo carina, quindi ve l'ho letta. Ditemi cosa ne pensate e me lo potete dire, sapete dove, su direttawombat.vado.li, il pad, cioè il foglio di testo condiviso che noi usiamo per chiacchierare con voi ascoltatrici. Scrivetemi lì, io lo vedo subito in diretta e vi rispondo a voce. Sta piacendo questo sottofondo musicale, lo trovate facilmente da YouTube, Chet Faker Thievery Corporation, non chiedetemi come mai si chiama così, ma lo trovate facilmente, Chet Faker Thievery Corporation. So Ma di cosa andrò a parlare adesso, eh? Di cosa mai andrò a parlare in questo momento? Beh, mi sono fatta totalmente introdurre l'argomento da questo importante assist di canzone che è Che Fico, Non ve lo immaginavate, si chiamava così la canzone. Che fico di Pippo Franco. Tra l'altro ringrazio un amico per avermi suggerito questo pezzo. Ebbene sì, ecco, parlerò di nuovo della pianta del fico. Mi piace questa, tra l'altro, continuità tra le varie puntate. Se vi ricordate anche qualche settimana fa che avevo parlato appunto del fico o della fica, ecco, vi avevo passato un po' di canzoncini trash così che parlavano di questa pianta, e quindi mi piace, ecco, questa continuità. Anche oggi ho riniziato un po' su questa onda così un po' ironica. Allora, perché però quindi voglio riprendere l'argomento, come vi dicevo già in apertura, è perché ho trovato un bello opuscoletto che mi ha fatto conoscere un po' di cose in più riguardo sempre a questa pianta incredibile. Voi vi chiederete, ma che cacchio c'hai addosso fico? Ma che cacchio te ne frega? Ma cosa c'ha di particolare? Ma boh, non lo so, mi piace, boh, è capitato e ne parlo, ecco, diciamo, non c'è nessuna ragione particolarmente specifica. Vabbè, sì, mi piace molto il fico come frutto, lo mangio veramente tanto volentieri, ancora di più la marmellata, mi piace tanto, tanto, anche la pianta in sé mi fa sentire a casa quando la vedo, per il discorso, come già si diceva, che appunto c'è sempre nelle nostre campagne toscane, ma in generale italiane, un fico in fondo al campo, no? Di ulivi o di vite o di quello che è. E quindi sì, insomma, un po' ci sono affezionata, ecco, sicuramente, però cioè non è che ci sia una ragione così tanto particolare per doverne parlare, semplicemente capita. Allora, quindi l'opuscoletto che vi riporto è niente meno che, attenzione, l'opuscoletto che ormai da qualche mese vendono spesso alla Coppe, ai Coppe, anche questo scommetto non vi suona così nuovo, quindi penso sia ogni mese Unicop Firenze, non che abbia nessun tipo di interesse a fare pubblicità, è solo per dirvi la fonte. Niente, crea questi librettini insieme all'Accademia dei Gergofili e con editore Giunti editore, crea questi librettini in cui spiega di piante particolari, frutti, piante o comunque generi alimentari, ecco. Quello che ho trovato questa volta, che non so se è di ottobre, di novembre, boh, comunque è fichi, uva e miele. Quindi è questo, spesso fanno gli opuscolini un po' combinati, e parlando di vari pietanze, vari alimenti insieme. In questo caso hanno preso tre cose dolci, quindi i fichi, l'uva e il miele, appunto. E vabbè, sono interessanti anche le altre due, per carità, ma io oggi vi leggo le cose sul fico. E, iniziamo, che ne dite? Allora, intanto c'è una parte che mi interessava, era quella iniziale in cui spiegano un po' di storia, così, cioè non è niente di sensazionale, è come librettina, una cosa così un po' piacevole, ecco, tranquilla. Insomma, cosa ci racconta però? Una pianta antica, intanto, questo è il titolo. Dice, difficile affrontare in poco spazio la millenaria storia del fico, infatti appunto pianta antica come si diceva. Recenti scoperte in Israele hanno dimostrato che l'uso alimentare dei fichi risale a oltre 11.000 anni fa. Boia, un botto, cioè già ci si stava stupendo prima per i 3-4.000 anni dell'ulivo di Luras, ma questi incredibili, fantastico. Appunto l'uso alimentare 11.000 anni fa, prima addirittura dell'uso del grano e dell'orzo. Quindi praticamente la pianta del fico è stata iniziata a coltivare, quindi non a mangiare ma a coltivare, perché la raccolta già veniva prima, ma a coltivare, quindi a riprodurre così, ben prima del grano e dell'orzo. Questa è una cosa veramente, almeno da parte mia, mi sembra veramente strabiliante. E, infatti questo giustifica l'antica ricorrenza della pianta di fico in miti e leggende o nella tradizione religiosa anche del Vecchio Testamento, secondo cui proprio il fico, citato molte volte, era l'albero presente nel paradiso terrestre, a differenza di quello che si pensa di solito, che si pensa sia il melo, invece no, era un fico. Anche questa cosa è sconvolgente, cioè incredibile. Infatti si diceva già l'altra volta che il fico nei vari secoli, dai greci ai romani, spesso si erano creati questi giochi di parole, no? Per cui il fico veniva associato al piacere sessuale prima, poi dopo proprio all'organo femminile, alla vagina. Quindi c'era sempre un po' quest'ambito così, e forse sbaglio io, ma anche questo fatto che era nella leggenda, ecco, del paradiso terrestre, anche quello secondo me è un riferimento, nel senso c'è Adamo ed Eva, le due creature iniziali, bla bla bla, sempre nudi, che sono loro che iniziano a procreare per l'umanità, e per l'appunto c'è il fico, cioè mi sembra collegato. Quindi appunto, infatti, anche qui ricorda, è simbolo di fertilità. E era oltretutto uno degli alimenti cardine del mondo greco. Tradizione vuole che Platone ne fosse molto goloso e li consumasse sia freschi che secchi. Cioè, quindi possiamo un po' sentirci Platone quando mangiamo i fichi, eh? Che fico, eh? D'altronde, il fico ha trovato un ambiente perfetto per la sua coltivazione e la sua grande diffusione proprio nell'areale mediterraneo. Questo si sapeva. Anche la fondazione di Roma è legata a questa pianta, anche questo è un aneddoto carino. La cesta, infatti, che trasportava sulla corrente del Tevere i gemelli Romolo e Remo, i famosi figli di Marte, bla bla bla, si fermò sotto un fico selvatico. Tra l'altro, qui lo indicano come Ficus ruminalis, non so di preciso quale pianta sia, comunque vabbè. Quindi il fico è sempre stato considerato una pianta, un albero sacro, e, al quale infatti associavano fausti auspici romani, anche successivamente, dopo, no, la fondazione dell'impero romano. Secondo Tacito, poi, un esemplare di fico cresceva nel foro romano come segno di buon augurio, e ogni volta che moriva veniva prontamente sostituito, ripiantato. Quindi sembrerebbe che anche appunto nella nostra antica storia il fico è una pianta importante. Ma per quanto riguarda i fichi di Cartagine, il fico venne usato anche come pretesto per muovere guerra. La tradizione ci ricorda che Marco Porcio Catone, per convincere della pericolosità di avere Cartagine a soli 3 giorni di navigazione, mostrò ai senatori un ramo con dei fichi freschissimi che provenivano dalla città africana. La manifestazione così evidente della vicinanza della città nemica convinse i romani a dichiarare guerra nel 149 a.C. alla storica rivale, decretandone la sconfitta e la distruzione 3 anni dopo. Cioè, questi aneddoti sono comunque troppo bellini. Vabbè, di guerra si sta parlando, niente di molto bello, ovviamente, però c'è un aneddoto che dice: una guerra inizia perché io ti faccio vedere i fichi che arrivano, non marci. Cioè, no, troppo ganzo, no? Invece, nel mondo islamico, il fico è una delle 7 piante della terra promessa, l'albero del cielo, mentre nella cultura europea del Medioevo troviamo il fico ampiamente coltivato e utilizzato, come dimostrano tante preparazioni dell'epoca, per esempio tra i dolci. Il frutto diventa anche uno strumento potente di metafora nella Divina Commedia. Questo anche già si era visto, però per un aneddoto, per un passaggio diverso. Invece qui cita il canto quindicesimo dell'Inferno, in cui Dante associa un frutto dolce come appunto il fico. Aspetta. Ah, ecco, avevo perso il soggetto, scusate. Quando Brunetto Latini, quindi nel canto quindicesimo in Inferno, associa Dante a un frutto dolce come appunto il fico, in mezzo ai sorbi aspri che rappresentano i fiorentini. Quindi lui spiccava in mezzo ai fiorentini e lo paragona quindi al fico. E, no, l'altra volta invece si era si era sì nominata la Divina Commedia, l'Inferno, proprio per un'altra ragione, se vi ricordate. Ora non mi sfugge il nome del personaggio, ma insomma questo ladro fiorentino che a un certo punto fa il gesto della fica, la mano della fica, che era questo gesto che lui rivolge al cielo in modo così dissacrante, no? E è un gesto che esiste, è quello quando uno mette, tipo, quando tipo fa nasino, no? Si fa nasino ai bambini e mette il pollice fra l'indice e il medio, quello è il gesto della fica, boh. Vabbè, e, invece, andando avanti, questa era una cosa carina che c'è scritta, che il fico anche nell'arte si ritrova più volte, in particolare, vi potete immaginare, spesso si trova nelle nature morte. E c'è proprio un pittore famoso fiorentino, ovvero Bartolomeo Bimbi, che si era specializzato nei dipinti di nature morte e ne ha fatti tantissimi e veramente ne ho visto alcuni veramente, veramente elaborati. E un esempio è questo che si chiama, scusate, Natura morta con fichi, ecco, volevo però essere precisa, del 1696. È veramente incredibile perché c'è il tavolo, come sempre, no? Con vari vassoi e sopra i vassoi sono ammucchiate tante varietà di fico, precisamente 51. Cioè, quindi lui non faceva nature morte così per divertirsi, ma vabbè, le faceva su commissione chiaramente, però ci studiava proprio tanto. E in questo caso appunto infatti c'erano 51 varietà di fichi, veramente incredibile. Infatti proprio per realizzare questi dipinti di nature morte lui ha dovuto collaborare con un botanico, anche lui fiorentino penso, ora ve lo ridico, ecco appunto il botanico Pier Antonio Micheli. E quindi ebbero questa collaborazione insieme, per cui lui gli spiegava, no, immagino, insomma, no, guarda, questa varietà è fatta più così, questa più cosà, insomma, era ovviamente un supporto importante che sicuramente Bartolomeo Bimbi immagino necessitasse. E quindi, insomma, hanno prodotto insieme varie opere, vari quadri di nature morte, tendenzialmente erano tutte commissionate dai medici. E, questo qui in particolare si trova, questo qui, Natura morta con fichi, si trova nel Museo della Natura Morta, giustamente nella villa di Poggio a Caiano, se mai lo voleste andare a vedere, a ammirare, a studiarvi, magari, magari siete appassionati quanto me della pianta del fico, vi volete studiare tutte le possibili varietà e magari vi piace, ecco, potete andarlo a vedere per questo. Allora vi mando un altro pezzettino, questo siamo più sulla sfera del reggae e questo è quindi Phyllis Dillon con Don't Stay Away. A tra poco. If you knew how much I love you, how much I need you, you wouldn't stay away. If you knew you set my soul on fire. cosa. Non ça va très bien pour toi mon pote. Ils sortent de tous les coups. Ils te promettent terre au ciel. Tout ça pour te voler. Ils sont prêts à te lécher le cul. Tout ça pour t'arnaquer. Ah oui, bientôt, ah oui, elle est là. Bientôt, ah oui, elle est là. Oh yeah, Janto, oh yeah, the latte. Janto, oh yeah, the light. Je suis Jésus-Christ en personne. Je viens pour te sauver. Je suis Jesus Christ en personne. Je viens pour te sauver. Sit down and tell me a like another day, another mic to hold. Hit the planet up with music that's beautiful. Roots carry out business as usual. This collaboration is the next movement, yo. Roots crew to regiment, Black Thought, me amo. And it's thing for life, yo, and that's final. Kid, you know the title, ain't no reason to remind you how I talk hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deeply, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to pee pee. But check it out. Rafiki, Rafiki. E dopo questa eccezionale pausa musicale torno in voce. Mi sono ovviamente fatta trasportare dalla musica e quindi ho messo un brano dopo l'altro. E avete quindi sentito, oddio, il primo non mi ricordo più qual era, forse... Tattara, sì, era Don't Stay Away, Phyllis Dillon. E invece dopo vi ho passato Antechrist di Larry Shaikh. Penso si pronunci She, e infine quest'ultimo bellissimo pezzo delle mitiche Zap Mama, si chiamava Rafiki, se non si era già intuito, bellissimo, veramente bellissimissima formazione, ottimo gruppo loro, ve lo consiglio, Zap Mama, ripeto, un gruppo inizialmente di donne belga. E inizialmente appunto erano solo voci e invece poi col tempo si sono aggiunti anche strumenti, anche se pochi, cioè avete sentito che comunque la parte di cori, voci eccetera è veramente, veramente centrale, fondamentale. Allora però continuiamo invece con i nostri belli argomentini e quindi continuiamo a spaziare in questa pianta del fico. Allora, sempre su il solito opuscolino che vi dicevo, quindi fa un po' un sunto, io ve ne leggo solo alcune, delle varietà di fico che esistono, che vengono usate in Italia, in particolare in Toscana. E, per esempio, una è il fico verdino, che è una varietà antica, talmente antica che è anche appunto raffigurata nei quadri del Bimbi, quindi Bartolomeo Bimbi, di cui già parlavamo prima. Qui tra l'altro vedo raffigurato un altro quadro di Bartolomeo Bimbi, sempre sul fico, e si chiama Natura morta con fichi, mele e ciliegie, olio su tavola, non è nel titolo ovviamente, che è bellina anche questa. Insomma, quindi il fico verdino, ecco, una varietà antica. Se no invece c'è il fico San Piero, il quale si chiama così proprio perché Aspettate, dove c'era scritto? Ah sì, tra l'altro anche questo era raffigurato nel quadro che si diceva prima del Bimby, delle 51 varietà. E, ecco, viene chiamato il fico San Piero proprio perché porta a maturazione i propri frutti in coincidenza con la festività dei santi Pietro e Paolo, quindi gli hanno voluto dare questo nome. È tipico della provincia fiorentina e niente, quindi viene ovviamente spesso mangiato in corrispondenza di questa festività. Se no, il fico dottato, non adottato, è dottato. il fico dottato che è inserito nell'elenco delle varietà sotto tutela, ce n'è tante di varietà di fichi protette, e ha una doppia produzione del frutto. E questo si era visto, mi sembrava si fosse detto l'altra volta, che praticamente la pianta del fico, diciamo, tutte le piante del genere ficus, tutte le varietà, scusate, della specie ficus carica, possono produrre frutti in più momenti dell'anno, in particolare in tre momenti, e ogni quindi frutto di queste tre epoche ha un nome diverso. Per esempio i fioroni, che spesso si pensa sia proprio una varietà, invece no, è una, diciamo, tipologia di frutto. Sono quelli che si formano da gemme dell'autunno e che quindi però, formandosi da gemme dell'autunno, maturano in primavera o insomma all'inizio dell'estate. Poi invece c'è la seconda mandata, che sono i fichi forniti, che invece sono appunto seconda mandata perché vengono prodotti dalle gemme primaverili e maturano quindi a fine dell'estate. E poi una terza mandata, che sono i cimaruoli, che come potete immaginare sono prodotti da gemme estive e che maturano nel tardo autunno. Quindi a seconda delle varietà delle piante di ficus carica, quindi del fico commestibile, alcune varietà magari producono i fioroni e i forniti, altri i forniti e i cimaruoli, altri i fioroni e i cimaruoli, insomma se li spartiscono un po'. E quindi appunto stavamo parlando del fico dottato, che è una varietà specifica, oddio, una varietà specifica no, non lo posso dire, scusa, una varietà appunto, ecco, una varietà, se no ci si incarta veramente, e la quale produce il fico, quindi il frutto, due volte all'anno. In particolare c'è il fiorone e il fornito, quindi il fiorone che matura in primavera o inizio estate e il fornito che matura a fine estate. Il primo, il fiorone, è ottimo per il consumo fresco, mentre invece il fornito è eccellente per l'essiccazione. Sapete ovviamente che i fichi si mangiano anche secchi, con tutte varie tecniche di essiccazione, e questa a quanto pare è una varietà molto buona per questo scopo. Tra l'altro, se vi andasse di comprarvi questo opuscolino, o comunque beh, vi trovate le fonti anche da internet, è bellino perché c'è un po' di foto vecchie. Per esempio c'è questa foto di questi panieri intrecciati in vimini, sembra, a forma di goccia, a forma quasi di fico per l'appunto, non so se era intenzionale, ma esposti al sole con tutti i fichi sopra a seccare, alcuni aperti, altri interi. Comunque questa foto carina, ovviamente in bianco e nero, e non so quando risale, ma insomma sarà a metà del Novecento, suppongo, una cosa simile. E ce n'è tante comunque di foto vecchie carine, anche di fiere. C'è, ecco, quest'altra anche carina, c'è tutta la famigliola che si è messa alla vendita dei fichi. E per continuare invece, da anche qualche piccolo spunto di ricette antiche, diciamo, per esempio i fichi sott'olio livornesi. No, incredibile, in realtà non sono sott'olio, cioè ci volevano ingannare, non c'entra niente l'olio, però si tratta di una conserva di fichi e succo di limone, messi però all'interno di uno sciroppo che sembra olio, cioè ha l'aspetto dell'olio, ma in realtà poi non c'entra niente con l'olio. Infatti sembrava strano, sembrava una cosa un po' strana, fichi e olio insieme, boh. Altra invece ricetta tradizionale è una ricetta, diciamo, di panificazione, in particolare si chiama il panificato dell'isola del Giglio, proprio perché è nato all'isola del Giglio. A quanto pare, tra l'altro, sembra avere anche una storia molto legata a quella dell'isola, perché appunto dice c'è una storia di pirateria, saccheggi, eccetera, perché collegata al periodo in cui l'isola del Giglio venne colonizzata dai senesi nel XVI secolo. Non spiega la storia, purtroppo, ma vabbè, sarebbe stato carino. Comunque questo si tratta di una ricetta di questa, diciamo, panettina, non so come dire, di fichi, quindi ricetta dolce ovviamente. Quindi in cui praticamente i fichi vengono messi in ammollo per un giorno intero nel vino e poi vengono aggiunti altri ingredienti, tra cui pane, insomma mollica e varie cose, deve essere una roba molto energetica. Dice però, tra l'altro, anche che spesso non venivano messi a bagno davvero nel vino, perché quello costava tanto, ma nella cosiddetta vinella, che era fondamentalmente un'acqua all'interno della quale venivano lasciati fermentare i raspi, che sarebbero i residui della vendemmia, quindi le parti restanti dalla vendemmia. Quindi ovviamente qui si sta, infatti, come vedete, sempre parlando di ricette tradizionali popolari, perché il fico, come anche gli altri elementi, gli altri, scusate, alimenti di cui parla questo fuscolino, che sono l'uva e il miele, sono ovviamente alimenti estremamente, estremamente contadini. Caspita, siamo arrivati. Oddio, io dovevo finire prima. Chi l'ha visto l'orologio? Mannaggia, siamo quasi arrivati all'ora. Ci siamo. Che dire, c'è altre cosine anche volendo in questo fuscolino, altre varie ricette. Però vabbè, insomma, comunque si tratta di una lettura così abbastanza di piacere, e si scoprono cose carine. Ah, ecco, per dire, trovo questa: fare le nozze con i fichi secchi, vuol dire, era un detto comune contadino per dire che, insomma, stai facendo un matrimonio abbastanza povero, ecco, non ti puoi permettere grandi feste di matrimonio sontuose, ok, perché insomma non c'è altro che i fichi secchi, un po' il concetto era quello. Sempre appunto a ricordare che è un alimento veramente veramente di uso comunissimo, ormai purtroppo un po' meno, perché insomma di contadini ce n'è sempre meno, però vabbè, ecco. E se, giusto così per sfogliare le pagine velocemente, alla fine c'è proprio tutta la parte dedicata specificatamente alle ricette. Vedo per esempio questo rigatoni fiche gorgonzola, che cioè mi si accaparra lo stomaco in questo momento a leggere queste cose. No, deve essere incredibile. Oppure altre ricettine per quanto riguarda sempre i fichi. Fiche e prosciutto, sinceramente non l'ho mai assaggiato, ma non deve essere male. O anche bruschetta lardo e fichi, beh, questa sicuramente male non è. Ma per darvi invece una ricetta mia, che non penso esista su questo fuscolino, vegetariana magari, è se volete provare, soprattutto se vivete in campagna, ancora più facile, prendete un fico, lo tagliate a mezzo, ci mettete sopra un pezzo di caprino, del formaggio caprino, sopra ancora una noce e infine, proprio il tocco di classe, è una fogliolina di nepitella. Devo dire, non è una ricetta davvero mia, l'ho rubata, però l'ho assaggiata, l'ho anche rifatta, è qualcosa di strepitoso, proprio per questa commistione del dolce del fico, del morbido del caprino, comunque un sapore anche forte, E poi vabbè, la noce ci sta sempre bene, e in fondo arriva questo sapore di mentuccia o nepitella, come si vuol chiamare, insomma è veramente veramente tanta roba. Bene, non mi resta che passarvi un ultimo pezzo per salutarvi. Alla fine ho concluso con la mia solita ora e mezzo. Vabbè, dovrò fare un po' le corse, ma va bene lo stesso. Dunque, ci risentiamo quindi con Nervature, come sempre, ormai lo saprete, il lunedì alle 19, sempre su Radio Wombat. E mi raccomando, continuate a ascoltarci. Dopo di me, tra l'altro, ci dovrebbe essere un'altra diretta, e vi magari potrei anche dire quale, se trovassi, perché lunedì dopo di me si alterna Le Porte di Tannhäuser con Topo Gig, non mi ricordo mai quale settimana è. Questa settimana sembra essere quella delle Porte di Tannhäuser, che non so di preciso se oggi passerà, ma scopritelo insieme a me, quindi rimaniamo tutte connesse sullo streaming di Radio Wombat. E invece con me, con Addo, appunto, ci risentiamo settimana prossima, sempre su quindi Radio Wombat alle 19 di lunedì. Vi lascio con quest'ultimo Masaniello Giovanni Remix feat. Frankie G. Vabbè, a parte il titolo. Comunque, con questa ultima traccia, e quindi buon ascolto. Continuate a rimanere connesse sullo streaming. Ci sentiamo settimana prossima. Buona serata.